Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. La storia che raccontiamo oggi ha come protagonista una donna dell'alta borghesia inglese, nata verso la fine del Settecento, diafana dall'incarnato roseo, dai lineamenti nobili. I dipinti dell'epoca ce la mostrano calma, elegante, avvolta in un meraviglioso abito di velluto dall'ampio décolleté, e non è difficile comprendere perché suo marito le dedichi questo verso delicato: oh tu, figlia dell'amore e della luce. Bene, eppure è dall'immaginazione di questa donna dolce e bella che scaturisce uno dei mostri più terrificanti che la mente umana abbia potuto concepire, soprattutto il capostipite del genere horror gotico. Perché la nostra protagonista di oggi è Mary Goodwin Shelley, e la diabolica creatura partorita dalla sua fantasia è il mostro per eccellenza, Frankenstein. Frankenstein. Allora è tutto vero. Mi hanno creato 200 anni fa. Nessun altro è come me. La tua forza, la tua velocità, la tua resistenza sono uniche. Puoi usare questi doni in una guerra che ti appartiene. Io combatto a modo mio. Frankenstein è sicuramente una delle invenzioni letterarie più famose e suggestive della storia, dà vita a centinaia di film, anche a un album concept che ho fatto io 2 anni fa, a moltissime parodie, qualsiasi cosa. Come lo feci di Victor Frankenstein? Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata! Sì, può fare! Si può fare, questa era una delle battute più famose di Frankenstein Junior, il meraviglioso, esilarante film di Mel Brooks e Gene Wilder, che era la parodia dei vecchi film horror in bianco e nero, proprio sulla vicenda del mostro riportato in vita dal dottor Frankenstein, anzi Frankenstein, come diceva lui. Un film, tra l'altro, che è stato uno dei maggiori successi della storia del cinema, è stato scelto nel 2003 per la conservazione nel National Film della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Uno dei tanti, delle centinaia di film dedicati al mostro Frankenstein. Ma come può essere che una signora tanto per bene, che ai tempi era una ragazza, Mary Shelley, moglie del poeta per eccellenza Percy Shelley, che ci immaginiamo circondata di bellezza, di pace, di natura, com'è possibile che abbia partorito una storia tanto raccapricciante? Vediamo di scoprirlo assieme. Mary Goodwin nasce a Londra il 30 agosto 1797. Suo padre William è un filosofo e politico radicale, mentre la madre, Mary Wollstonecraft, è considerata la fondatrice del femminismo liberale. Purtroppo la madre muore 12 giorni dopo averla partorita, muore di setticemia, lasciando il marito con una bimba appena nata e anche una figlia più grande, Fanny. Tirare su 2 figlie femmine non è semplice, ecco perché poco dopo Goodwin si risposa con la sua vicina di casa, un'altra Mary, Mary Jane Claremont, che ha anche lei 2 figli. Mary, la nostra Mary, riceve un'istruzione inusuale e avanzata per una ragazza del suo tempo, ha un insegnante privato, libero accesso alla biblioteca di casa, le è consentito addirittura leggere i manoscritti del padre, e quindi a 15 anni suo padre la descrive già così. Mary è straordinariamente audace, piuttosto imperiosa e attiva di mente. Il suo desiderio di conoscenza è grande e la sua perseveranza in tutto ciò che intraprende quasi invincibile. Devo lasciare qualcosa di grande, anche se costa fatica, anche se il prezzo è la vita. Sono disposto a distruggere tutto di me, ma voglio che resti qualcosa di grande. A 15 anni Mary viene mandata per un lungo periodo a casa di un amico del padre, il radicale William Baxter, in Scozia. Forse suo padre vuole allontanarla per un po' dalla matrigna con la quale lei non va molto d'accordo, o forse vuole che respiri l'aria liberale di casa Baxter. Al suo rientro Mary incontra per la prima volta l'uomo destinato a cambiare la sua vita, il poeta e filosofo radicale Percy Bysshe Shelley, il quale vive praticamente a casa sua, a casa dei Goodwin, con la moglie Harriet Westbrook. Shelley è un baronetto, membro dell'aristocrazia inglese, ha ascendenze molto nobili ma un animo rivoluzionario. Ha letto il trattato Giustizia politica di William Goodwin, che predica una ridistribuzione delle ricchezze. È una lettura che modifica la visione del mondo del baronetto e gli chiude al tempo stesso le casse della nobile famiglia, indispettita dalle sue continue elargizioni e dalla sua vicinanza con il popolo. Mary ha 17 anni, Percy rappresenta per lei tutto quello a cui aspira. È bello, colto, nobile ma generoso, e soprattutto è sposato infelicemente e quindi la corteggia. I due si innamorano e decidono di fuggire assieme. E bisogna anche dire che le idee riformiste di fine Settecento che porta avanti proprio William Goodwin contestano, tra le altre forme di legame sociale, anche il matrimonio, che viene già definito allora un monopolio repressivo. Si parla per la prima volta di coppia aperta, di convivenza come forma di rapporto uomo-donna, di scioglimento del matrimonio. Insomma, c'è una certa aria libertaria e libertina che facilita e in qualche modo legittima le relazioni extraconiugali. Lo scrittore Paul Brody, nel suo libro Frankenstein in Love, racconta l'incontro travolgente tra i due giovani. Lei aveva 17 anni ed era figlia di un pensiero rivoluzionario. Lui aveva 22 anni ed era prigioniero di un matrimonio infelice. Era un amore proibito, ma a loro non interessò. Si ammiravano l'un l'altro e divennero la coppia letteraria più memorabile del loro tempo. Così il 28 giugno 1814 Mary e Percy scappano, fanno la fuga d'amore e si portano dietro la sorellastra di lei, Claire. Si spostano a dorso di mulo, sui carretti dei contadini, attraversano la Francia dilaniata dalla guerra, leggono le opere della madre di lei, femminista, e quelle progressiste del padre, recitano poesie, scrivono, vivono come due bohemien. Poi però i soldi finiscono, i fuggiaschi devono tornare a casa, a Londra, anche perché intanto Mary scopre di essere incinta. Partorisce prematuramente una bambina che muore appena nata. Così Mary cade in depressione, ma si riprende quasi subito perché aspetta un altro bambino, che questa volta nasce sano e vispo. Il 24 gennaio 1816 viene chiamato William in onore del nonno Goodwin. E col piccolo Will Mouse, come viene soprannominato il bambino, e con la sorella Claire che la coppia parte nel maggio successivo e va a Ginevra, dove ha pianificato di trascorrere una lunga estate di vacanza e di lettura sulle rive del lago di Ginevra, ed è qui che si compierà l'evento destinato a cambiare la vita di Mary Shelley e un po' anche le nostre, la mia sicuramente. Tra poco a Il Falco e il Gabbiano. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la genesi di una nascita mostruosa, quella dell'invenzione letteraria di Mary Shelley, la moglie del poeta Shelley, lei stessa scrittrice, che dà vita a quello che viene considerato il primo romanzo di fantascienza e che ha per protagonista il mostro per eccellenza, Frankenstein. La nostra vicenda si svolge nell'Inghilterra dei primi anni dell'Ottocento, dove Mary, che si chiama Goodwin da signorina, incontra a 17 anni il 22enne Percy Shelley, se ne innamora ricambiata e, dato che lui è già sposato, scappa con lui. Diventano una coppia di fatto, hanno anche un figlio, William, e li troviamo finalmente nel maggio del 1816 in partenza per il lago di Ginevra. Sono ospiti di un altro illustre, Lord Byron, Lord George Byron, grandissimo poeta, amico di Shelley, che tra l'altro si fidanza con Claire, ricordate, la sorella che si erano portati dietro nella loro fuga romantica. I due prendono affitto in una casa che si chiama la Maison Chapuis, che è attaccata a Villa Diodati, dove invece risiede Byron. Quindi cominciano a frequentarsi sulle rive del meraviglioso lago di Ginevra. L'ombra paurosa di una potenza invisibile aleggia fra di noi, visitando questo variato mondo con ala incostante. Come di fiore in fiore serpeggiano i venti d'estate, come raggi lunari che inondano i pini della montagna. Con sguardo incostante visita ogni sembianza e cuore umano, come qualcosa che per sua grazia sia cara e tuttavia più cara per il suo mistero. Questi sono versi scritti da Shelley di getto, nati, come scrive lui, sotto l'influsso di sentimenti che mi turbarono fino alle lacrime. E stiamo parlando di Shelley e di Byron, praticamente i due più grandi poeti inglesi dell'Ottocento. Immaginiamoceli vicini di casa che passano le loro giornate assieme, scrivendo, parlando. A un certo punto al gruppo si unisce anche il medico personale di Byron, un suo grande amico, si chiama John Polidori. Quindi immaginiamo le giornate di questi gentiluomini e gentildonne inglesi in vacanza sul lago di Ginevra, vacanza di 5 mesi, insomma, perché allora le vacanze duravano un po' di più rispetto ai weekend di oggi. E tra l'altro lo scorrere delle giornate ha tutto un altro sapore. E a tutto questo si aggiunge il caso che influenza sempre le nostre vite. E a un certo punto c'è una casualità importante di tipo meteorologico. L'ultima grande crisi di sopravvivenza del mondo occidentale. Così lo storico John Post battezza il 1816, è l'anno senza estate e l'anno della povertà. Infatti, a causa di gravi anomalie al clima estivo, i raccolti dell'Europa settentrionale, degli Stati Uniti, del Canada vanno distrutti. È una paurosa carestia frutto delle prime aberrazioni climatiche causate dall'eruzione vulcanica del Tambora nell'isola di Sumbawa nell'attuale Indonesia. È un'eruzione che immette quantità di cenere vulcanica negli strati superiori dell'atmosfera e quindi la temperatura globale, come è comune a seguito delle grandi eruzioni vulcaniche, si abbassa perché la luce fa fatica a attraversare l'atmosfera. Insomma, tutto questo avvenimento si sovrappone a un periodo in cui si verifica il minimo di Dalton, cioè il momento in cui il sole emana meno energia. La Terra attraversa quindi un periodo che viene chiamato piccola era glaciale. Fa più freddo del normale, ci sono abbondanti nevicate e il sole non scalda. Piove sempre. Rain, rain, rain in my tears, measuring carefully my years. Shame, shame, shame in my mind. See what you've done to my life. L'anno senza l'estate miete le sue vittime. Il gruppo dei nostri amici non può uscire. Il tempo è tremendo e Mary Shelley scrive: il clima umido, un'estate inclemente, una pioggia incessante, ci confinarono in casa per lunghe giornate. Ci vennero per le mani alcuni volumi di storie di fantasmi, tradotte in francese dal tedesco. Eh sì, si tratta di Fantasmagoriana, una raccolta di racconti del terrore. Cosa c'è di meglio di un bel fuoco scoppiettante, di un buon brandy nella notte umida e qualcuno che magari è Byron che legge a mezza voce una storia di paura? È perfetto. Così la notte del 16 giugno 1816 è una notte magica e maledetta, destinata a diventare leggenda, perché in uno dei racconti che stanno leggendo i nostri amici, un gruppo di viaggiatori descrive le sue esperienze soprannaturali. E questo ispira Byron, che sfida gli altri in una gara di improvvisazione. Ciascuno dovrà raccontare una storia spaventosa e vincerà quello che spaventerà di più gli altri. Io continuavo ad arrovellarmi per trovare una storia all'altezza di quelle che ci avevano spinti all'impresa. Una storia che testimoniasse i misteriosi terrori della nostra anima, che ci scuotesse con brividi di orrore. Una storia che facesse temere al lettore di guardare dietro di sé, che gli gelasse il sangue nelle vene e gli facesse balzare il cuore in gola. Se non fossi riuscita ad ottenere tutto ciò, la mia storia di fantasmi sarebbe stata indegna di tale nome. Riflettei, ponderai, invano. Provavo quella totale incapacità di inventare che è la più grande disperazione di uno scrittore, allorché il puro nulla risponde alle sue ansiose invocazioni. Mary non ha idee, la palla viene passata a Polidori, che è un medico, è l'unico che non è letterato, lo si immagina il più svantaggiato, ma lui, forse perché medico e abituato a vedere il sangue, racconta la vicenda di un lord inglese di origini misteriose che si rivela essere un vampiro. Il protagonista, Lord Ruthven, frequenta come un gentiluomo alla moda i salotti londinesi, gioca d'azzardo e succhia il collo alle belle dame. Non è il personaggio crudele e sanguinario della tradizione popolare, ma un eroe byroniano, tenebroso, maledetto, il primo vampiro della letteratura inglese, The Vampire. The Vampire di John Polidori diventa incredibilmente un romanzo che vede la luce nel 1819, pubblicato sulla rivista New Monthly Magazine, ed è l'antesignano di una lunghissima serie di racconti e storie legate alla figura del vampiro moderno, tra cui il famigerato Dracula di Bram Stoker. Mary Shelley? Mary non ha idee, decide di andare a dormire, ma come sappiamo la storia non finisce qui. Stiamo raccontando la storia di una donna straordinaria, Mary Shelley, e stiamo parlando di una notte terribile, piena di mistero e di paura. È la notte del 16 maggio 1816. In una cornice già tetra di per sé, sul lago di Ginevra, tempestato dalla pioggia di una estate gelida che si preannuncia, ci sono Mary Shelley, il suo fidanzato che Percy Shelley, Lord Byron, la fidanzata di Lord Byron, sorella di Mary, e il loro medico personale, John Polidori. La scena è raccontata magistralmente nel film Gothic di Ken Russell del 1986. Io mangio solo per vivere, l'immaginazione è il mio sostentamento, finché la vita mi offrirà più piacere della morte. Perlomeno ti abbiamo convertito alla dieta vegetariana. Sì, la carne rende la carnagione troppo sanguigna, l'aceto, d'altra parte, conferisce un estetico pallore. Pensavo che tu lo bevessi per scherno alla crocifissione. Dannatissimo ateo. Grazie a Dio che io sia dannato. Fa tutto il possibile per coltivare un'immagine cadaverica. Quindi avete capito, insomma, il clima che si respira in quella notte di pioggia. E come abbiamo detto prima, sta partendo una gara. Una gara che verrà vinta da chi inventerà la storia più terrificante. E qui c'è il colpo di scena, perché si porta in testa il dottor Polidori, e quindi il meno letterato di tutti, che racconta le vicende di un vampiro. Mary Shelley sta soffrendo perché non ha idee, la sua mente è vuota, quindi decide, un po' triste per non essere riuscita a impressionare i suoi amici, decide di andare a dormire. Quando poggiai la testa sul guanciale non potei prendere sonno, e neppure potrei dire che stessi pensando. L'immaginazione si impadronì di me, guidandomi. Vedevo a occhi chiusi, ma con la mente ben desta, lo studioso di una scienza sacrilega, pallido, inginocchiato accanto alla cosa che aveva messo insieme. Vedevo l'orrida forma di un uomo disteso, poi una macchina potente entrava in azione. Il cadavere mostrava segni di vita e si sollevava. Doveva essere terrificante, come terrificante sarebbe l'effetto di qualsiasi opera umana che riproducesse lo stupendo meccanismo del creatore del mondo. L'artefice è atterrito dal proprio successo. Pieno di orrore fugge. Spera che quella cosa sia risucchiata dalla morte. Scivola nel sonno, poi apre gli occhi. La cosa è lì. Lo fissa con occhi giallastri e acquosi. Ci siamo. Sta nascendo la grande idea, forse influenzata dalle conversazioni di Shelley e di Byron sulla natura dei principi della vita, su Darwin, sul galvanismo, quindi sulla possibilità di assemblare una creatura inanimata e infondergli la vita. Mary si sdraia sul letto e comincia a vivere ad occhi chiusi o forse occhi aperti la sua avventura terrificante. È qui che lei incontra la sua creatura, l'essere destinato a cambiare la sua vita per sempre. La mattina dopo annuncia al gruppo che ha trovato la sua storia e racconta il nero terrore del suo incubo da sveglia. Shelley trova il suo racconto sensazionale e la incita in ogni modo a metterlo subito nero su bianco, trasformandolo in un vero e proprio romanzo. Ti ho chiesto io, creatore, dal fango di farmi uomo. Ti ho chiesto io di trarmi dal buio. John Milton, nel suo Paradiso Perduto, fa chiedere ad Adamo spiegazioni sulla sua creazione a Dio che lo ha plasmato dal fango, e Mary Shelley apre con questi versi il suo romanzo perché anche la sua creatura vorrebbe delle spiegazioni circa la sua esistenza, ma trova solitudine intorno a sé. Il suo creatore atterrito è fuggito, e così il mostro grida: Satana aveva i suoi compagni che lo ammirassero e incoraggiassero, ma io sono solo. Mary Shelley intitola il suo capolavoro Frankenstein, ovvero il moderno Prometeo, facendo riferimento al titano della mitologia greca che si ribella agli dèi e dona il fuoco all'uomo, mentre il suo protagonista, il dottor Victor Frankenstein, tenta di donare agli uomini la possibilità di fuggire dalla morte e plasma una creatura assemblando parti di cadaveri. Il nome Frankenstein significa letteralmente roccaforte degli uomini liberi, e in Germania esistono molti luoghi associati a questo nome. C'è un castello di Frankenstein in Assia, uno nel Palatinato, uno in Turingia, esiste un comune chiamato Frankenstein in Sassonia e perfino una città della Polonia con questo nome. Mary Shelley è attratta dal suo significato e lo vuole per il protagonista del suo romanzo. Il dottor Victor Frankenstein è il creatore del mostro, che è chiamato anche creatura o demonio, e spesso la gente lo indica erroneamente con il suo nome, ma poi neanche tanto erroneamente, perché se è figlio di Frankenstein in fondo si chiama Frankenstein anche il mostro. È il prototipo dello scienziato pazzo che vuole a tutti i costi piegare la natura ai suoi voleri. Sconvolto dalla morte prematura di sua madre, decide di ridare vita a una creatura inanimata. Studia la decomposizione e il percorso degenerativo dei cadaveri e riesce nel suo intento. Cuce pezzi di corpi e crea senza volerlo un mostro orripilante. L'avevo desiderato con intensità smodata, ma ora che avevo raggiunto la meta, il fascino del sogno svaniva. Orrore e disgusto infiniti mi riempivano il cuore. Il romanzo di Mary Shelley, scritto in forma epistolare, si dipana in una serie infinita di avvenimenti incredibili che vedono lo scienziato e la sua orrenda creatura rincorrersi in giro per il mondo. La storia termina inevitabilmente con la morte di entrambi, ma prima di morire il mostro confessa che il suo odio e la sua malvagità nascono dal disprezzo che tutti hanno dimostrato nei suoi confronti. Il disprezzo causato esclusivamente dal suo aspetto orrendo. In questa morale si avverte l'influenza del padre su Mary, William Goodwin, che nei suoi scritti considera le istituzioni come il governo, le leggi, il matrimonio, forme di controllo sulle vite delle persone. Auspica un nuovo ordine sociale basato esclusivamente sulla benevolenza e la tolleranza universali. Frankenstein, ovvero il moderno Prometeo, vede la luce l'11 marzo 1818 in forma anonima. Le critiche sono subito sfavorevoli, dicono che il romanzo non coinvolge il lettore, che non ha una morale, lo catalogano come un'orribile storia movimentata. È già un'ottima base di partenza, infatti a una critica sfavorevole corrisponde un grande successo di pubblico. Viene subito esaurita la prima edizione e quando con la ristampa viene finalmente fatto il nome dell'autore e si scopre che in realtà è un'autrice, per giunta 21enne, i critici vengono spiazzati e scrivono: per un uomo era eccellente, ma per una donna è straordinario. Il cinema attinge a piene mani dal libro di Mary Shelley, fin dai suoi esordi con le pellicole mute. I primi film con il mostro sono considerati talmente spaventevoli che al cinema, prima dell'inizio della proiezione, viene avvertito il pubblico. È una delle storie più strane mai raccontate. Ha a che fare con i due misteri della creazione, la vita e la morte. Penso che vi appassionerà. Potrebbe anche scioccarvi, perfino inorridirvi. Quindi se qualcuno di voi pensa di non voler sottoporre i propri nervi a un tale stress, ora è la vostra occasione per... Beh, noi ve l'abbiamo detto. Tra le edizioni più famose di Frankenstein c'è sicuramente il film di James Whale del 1931, con nel ruolo del mostro il mitico Boris Karloff. Stavo recitando in un film alla Universal e James Whale mi vide al make-up. Mi invitò al bar a bere un caffè e mi disse che voleva farmi un test per il mostro. Io pensai che questo non deponeva a favore del mio aspetto. No, scherzo, ne fui contentissimo. C'era un bravissimo truccatore, Jack Pierce, e lui lavorò al make-up del mostro per 3 settimane e poi mi disse che era pronto. Mi fecero una foto, piacque molto e così ebbi la parte. Fu una grande sfida perché dovevo interpretare una creatura muta, senza aiuto, in un ambiente ostile. Non c'era dialogo e dovetti trovare un modo per comunicare. I Frankenstein nel cinema non si contano. Lon Chaney, Bela Lugosi, Christopher Lee, perfino Robert De Niro, e nel 1994 in un film di Kenneth Branagh, Mary Shelley's Frankenstein, prodotto da Francis Ford Coppola, un film meraviglioso che vi consiglio. Ma e poi c'è una delle versioni più conosciute su Frankenstein, è una parodia alla mitica Frankenstein Junior di Mel Brooks, che annovera alcune delle battute più famose della storia del cinema. Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Scusa, io... non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura. Potrei forse aiutarti con quella gobba. Quale gobba? Lupo uno là e Castello uno lì. Dimmi, quel cervello che mi hai portato era di Hans Delbruck? No. Ah, bene. Ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che gli ho messo dentro? Non si arrabbierà, eh? No, io non mi arrabbierò. Abbi qualcosa. Abbi qualcosa? Abbi chi? Abbi norme. Abbi Norman? Sono quasi sicuro che era quello il nome. Vorresti dire che io ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo 2,20 metri e largo come un armadio a due ante? Canaglia! Mary sposa Percy Shelley, rimasto vedovo, il 30 dicembre del 1816, in quello stesso incredibile anno che vede la nascita della sua fortunata creatura, il mostro Frankenstein. Il poeta muore in un incidente in barca solo pochi anni dopo, nel 1822. Mary prosegue nella sua carriera di scrittrice, affiancata dal figlio Percy Florence, l'unico figlio dei molti avuti che le sopravviverà. Pubblica una serie di romanzi e di racconti, ma muore giovane anche lei, a 53 anni, per un tumore al cervello, lasciandoci però un'eredità intramontabile. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto, fare qualcosa che abbia lasciato un segno sicuramente. Mary Shelley è stata una di queste persone, perché con il suo romanzo è diventata immortale, e chi è immortale vola sempre in alto. Se volete mandateci i vostri commenti, segnalateci alcune vite su cui puntare il microfono. Scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it oppure trovateci con i nostri social. Se volete, mi trovate. Ciao, a domani. Non so chi partirà, chi mi sarà vicino, ma so che non mi fermerò. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.